Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Operativi come sempre dal Groove Master Studio per dare il via al sound check, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 384, quello di questa sera, e vado subito a salutare Francesco Tromba. Silvia Barba non c'è, dove l'hai lasciata? In realtà è rimasta a casa perché è un po' malaticcia. Oh, mi dispiace. Silvia, rimettiti, noi ti aspettiamo, però come vedi non abbiamo perso tempo, l'abbiamo sostituita in un secondo. Anche abbastanza bene, mi pare. Abbastanza bene, sì, sono molto contento oggi di raccontarvi cose tipiche dei musicisti, o meglio degli artisti, quando devono promuovere la loro arte e il loro talento in occasione della pubblicazione di un nuovo disco, oppure in occasione di una tournée in partenza o di un concerto importante, e quindi si ha sempre bisogno di avere alle spalle il lavoro di un ottimo ufficio stampa. È un piacere per me questa sera presentarvi un ufficio stampa accreditato nel nostro paese, ufficio stampa che poi è una figura femminile anche molto piacevole. Vado a introdurvi Madame Messier Fiorenza Gherardi De Candei, ben arrivata. Grazie, buonasera a tutti. Quando ti presentano oggi, guarda, ecco, intanto è forte perché di solito sei tu che accompagni gli artisti, invece questa volta sei arrivata puntualissima, perché lo voglio dire agli amici in ascolto, gli uffici stampa, cioè i responsabili degli uffici stampa sono puntualissimi, anzi arrivano sempre in anticipo per preparare il percorso all'artista, che poi è sempre un po' in ritardo a volte, no? A volte sì, non sempre, ma è nostro dovere esserci. Ecco, è tuo dovere esserci, questa sera sei protagonista. Noi ci siamo visti altre volte qui nel Groove Master Studio perché hai accompagnato tanti artisti protagonisti della scena italiana del jazz e non solo del jazz. Questa sera invece sei protagonista tu al soundcheck. Assolutamente, è un ruolo inedito. È vero? Come ti senti? Emozionata sicuramente. Che bello, l'emozione per esempio Francesco Tromba, che è diventato una star multimediale, non la prova più. No, ormai da un po' di anni che sto qui, quindi. Acqua fresca per te, quasi sei arrivato alla noia. Beh, no, ancora no. Ancora questo no. Punto ancora. Comunque non vi annoierete questa sera ascoltando il nostro soundcheck, non tanto per gli argomenti che tratteremo, mi auguro nel miglior modo possibile, dicendo sempre delle cose interessanti, ma perché l'airplay che ho selezionato per voi, secondo me, è qualcosa di fantastico, perché dopo tante novità, Francesco, ho pensato di raccogliere nella puntata di oggi quelli che potrebbero essere considerati dei masterpiece del contemporary R&B, ovvero contemporary old school dell'R&B, quindi artisti che hanno effettivamente segnato un'epoca con il loro sound, la loro musica, la loro mentalità, e creato in qualche modo l'evoluzione del sole dell'R&B di oggi. Fanno tutti parte della storia, potremmo dire, ormai del genere praticamente. Ormai sì, è vero? Sì, assolutamente tutti. Fiorenza, quanta musica ascolti? Una valanga tutti i giorni, sì. Da sempre, da quando sono nella pancia di mamma. Senti, vorrei iniziare il discorso subito, però proprio un minuto introduttivo. Come funziona? Cioè, gli artisti ti chiamano, ti chiama la casa discografica? Raccontami il rapporto iniziale. Il rapporto iniziale dipende proprio dalla produzione del disco o del tour. A volte mi chiama il singolo artista, a volte la casa discografica, a volte il festival che sta organizzando degli eventi e ha bisogno di un ufficio stampa, quindi dipende dai casi. Ecco, il tuo è un ufficio stampa specializzato in musica, ma potresti anche ampliare il raggio d'azione o ci sono dinamiche differenti? Non ci sono dinamiche differenti, ovviamente l'esperienza e i contatti sul campo poi ti portano a settorializzare, però mi sono occupata di ufficio stampa anche nell'ambito dell'arte figurativa o anche a livello aziendale altre volte. Facendo l'ufficio stampa per festival più o meno importanti, ti è mai capitato di lavorare con Branford Marsalis? Non mi è ancora capitato. Beh, te lo auguro perché è un musicista eccezionale, noi lo stimiamo, lo amiamo e il grande pubblico lo ha conosciuto non tanto per le sue esperienze jazzistiche all'inizio della sua carriera, ma anche perché è un musicista versatile, onnivoro musicalmente, tant'è vero che per anni ha lavorato con Sting, ma a un certo punto, metà degli anni 90, mise su un'operazione fantastica, cioè quella di coniugare il jazz e l'hip hop, di metterli insieme, di mischiare le carte, di realizzare un album fantastico intitolato Music Evolution, che ci presentò anche il talento di Frank McComb. Il brano è splendido, Another Day, Buckshot LeFunk. Eh sì, il suono originale dei Buckshot LeFunk, quanto mi piaceva questa band. Peccato che è durato poco il periodo di Music Evolution con Branford Marsalis e poi alcuni fra i migliori musicisti di jazz, funk e hip hop di quel periodo. Sì, hanno fatto solo due dischi se non sbaglio, quindi sì, è durata veramente poco, però sono stati delle icone anche dal punto di vista cinematografico, potremmo dire, perché è si vero, collegavano direttamente anche a quelli che erano tutti i film di Spike Lee in quel periodo. Eh sì, hanno poi, come diciamo noi, dato il là, hanno avviato la carriera a tanti artisti, a tanti musicisti che improvvisamente hanno avuto un'illuminazione dopo il progetto di Branford Marsalis, e quindi siamo arrivati fino a Robert Glasper, per dirne uno. Sì, soprattutto nel passaggio appunto nell'hip hop, dalle campionature dei computer all'hip hop suonato. È vero, e quindi anche il coinvolgimento di rapper e cantanti più vicini al gospel, al soul, che alla musica jazz. Comunque, Fiorenza Gherardi De Candea, nostra ospite, ufficio stampa accreditato, per raccontarci un po' come funziona il lavoro di un ufficio stampa. Intanto mi sa che te avresti potuto fare tanti altri lavori, no? Sì, e ne ho fatti anche tanti altri e credo che questo abbia contribuito ad arricchire poi il modo in cui faccio ufficio stampa oggi. Ecco, ma perché hai scelto di diventare un ufficio stampa? Come si diventa un ufficio stampa? Allora, io diciamo che ho tracciato una via molto personale. Sono appassionatissima di musica, ho studiato musica, ma fin da piccola sapevo che non volevo fare la musicista di mestiere. Hai studiato musica, e che strumento... Pianoforte, canto, poi ho strimpellato chitarra, armonica, ukulele, percussioni. Finalmente una che conosce la musica fra gli uffici stampa. Ce ne sono altri? Sì, di colleghi. Certo, sì, sì. Che conoscono la musica? Sì, abbastanza. A vari livelli. Va bene, quindi suonavi e poi a un certo punto, dopo aver fatto altre esperienze, come... Che è successo? All'università io ho fatto il DAMS Musica, quindi studi di musicologia, ma nel frattempo all'età di 20 anni ho organizzato un evento multiartistico all'Università di Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia. Un lavoro complicatissimo, ideazione, organizzazione, erogazione, promozione dell'evento, però me ne sono innamorata, quindi ho iniziato come organizzatrice di eventi multiartistici, ma soprattutto musicali. E alla fine, collaborando anche con associazioni, ho visto che la promozione era quella fase, quindi l'ufficio stampa era quella branca dell'evento che però mi metteva in contatto direttamente con quello che è il prodotto in sé, e quindi direttamente con la musica e con i musicisti. Ebbene, quindi il contatto con il pubblico, con i musicisti, l'abilità di poter fare pubbliche relazioni in maniera carina, garbata, e tu senz'altro sei una sorta di icona in tutto questo. Bene, direi di andare alla musica. Facciamo, prima di una piccola pausa, Take Six. Che band, ragazzi, perché abbiamo scelto i Take Six? Perché anche questi signori, come band a cappella, hanno aperto un percorso contemporaneo importante venendo dal gospel. Dei miti veri e propri. E poi quando cantano un successo come Sing a Song degli Earth, Wind and Fire con la produzione di Marcus Miller, facciamo scopa. Soundcheck, il suono della musica. Abbiamo addirittura dedicato un'intera puntata della domenica a Michelin de Giosello, qui al Soundcheck che torna con Dreadlock, brano tratto da Plantation Lullabies, il primo album pubblicato per questa incredibile artista, musicista, cantante, una poetessa, producer discografico, ormai fa di tutto nello show business musicale, il primo album prodotto poi da una grande pop star come Madonna. Sì, ricordiamo che scelse di farsi produrre da Madonna donna e non da Prince, quindi è una cosa che Prince si legò al dito abbastanza, glielo rinfaccio diverse volte. È incredibile, chissà. Beh, secondo me c'è un motivo. Quale? È che Madonna presentò un assegno. Probabilmente, probabilmente sì. No, sì. Perché certamente mi sembra è più vicino il mondo di Prince a quello di Michelle, non quello di Madonna. E infatti poi ci fu una sorta di riconciliazione tra i due, non definitiva però. Poco a poco riusciranno a ricostruire un rapporto. Eh sì, la puntata di oggi vuole raccontare alcuni masterpiece del contemporary R&B e del soul degli ultimi anni. Cerchiamo di capire quali possono essere i brani, ma i brani che quasi potremmo considerare degli standard contemporanei del genere, ma anche gli artisti significativi e quindi quelli che bisogna andarsi poi a studiare. Sì, perché quando parliamo ormai di black music, di soul e di R&B, è un po' come tra trattare i grandi artisti del jazz o della musica classica. Ci sono dei personaggi che vanno studiati. Dunque, Fiorenza Gherardi De Candei, ufficio stampa accreditato nel nostro paese, specializzata in modo particolare nel jazz. Come mai? C'è molta attenzione da parte degli artisti della nuova generazione anche nella comunicazione. Una volta eravamo più bohemien. Sì, è vero, ho notato, ma diciamo che è proprio la comunicazione, il settore della comunicazione che non solo è cambiato ma è diventato preponderante in questa società odierna e quindi anche il nostro lavoro finalmente ha acquisito una nuova luce. Ecco, una nuova luce però si è anche complicato, no? Perché una volta c'erano più spazi sui giornali, forse i giornalisti erano più attenti, ma anche i giornali, le testate davano proprio più spazio ai giornalisti musicali, a quelli che facevano spettacolo, e c'erano più programmi nelle radio, nei network, programmi attenti anche a altri suoni, altri generi. Invece lo sai bene, insomma, qual è la difficoltà per te nel promuovere certi artisti che hanno quel tipo di suono che non è quello omologato? Nei canali tradizionali sicuramente al momento c'è più difficoltà, il web ci viene in soccorso e sicuramente quindi da radio web a testate nuove e comunque parallele alle testate cartacee sicuramente rimane una grande attenzione anche per il jazz. Però io volevo farti una domanda, diciamo, proprio sull'azione, cioè su quello che fai realmente. Ad esempio, no, io sono un giovane artista, sta per uscire il mio primo disco, il mio primo EP. Come fai a promuovermi? Cioè, qual è il tuo lavoro vero e proprio? Il primo passo. Allora, una cosa su cui mi concentro tantissimo è conoscere l'artista, sia dal punto di vista della persona come musicista, che poi è colui che si va a rapportare anche con i giornalisti nel momento delle interviste, o con il pubblico, o con i direttori artistici. Quindi mi studio un po' il modo in cui l'artista si propone nel mercato discografico, e poi ovviamente mi studio il suo album, la sua musica, e da lì parte il tutto, quindi parte il puntare sui punti di forza, sull'eventuale novità o una ripresa della tradizione e via dicendo. Dopodiché c'è tutto un piano di comunicazione con gli strumenti di promozione, ecco, classici. Ecco, la comunicazione è importante. Noi sappiamo bene che ci sono musicisti strepitosi quando sono sul palco, quando hanno il loro strumento in mano, però che hanno magari qualche difficoltà quando devono comunicare verbalmente il loro lavoro. Ti è mai capitato qualche somaro di questo tipo con il quale hai avuto difficoltà? Cioè, ti sei detto è meglio che non lo porto nelle radio, che fa un danno? No, forse questo livello no. Mi è capitato qualche volta di andare in radio e preparare una sorta di testo o di promemoria di cose da dire, o comunque mi piace essere presente perché eventualmente dall'altra parte del vetro faccio dei gesti per ricordare cose importanti. Allora, un'altra artista fondamentale per il contemporary R&B è quella che è considerata la regina del New Soul, un'artista affascinante. Mi hanno detto che nel suo studio di registrazione casalingo lei registra naturalmente scalza, piena di veli, con candele e non illuminazione artificiale, insomma un vero personaggio. È ormai una sacerdotessa vera e propria. E di chi stiamo parlando? Di Erika Badu. Soundcheck. Il suono della musica. Che puntata, che sound, ragazzi, da Buckshot Le Funk di Branford Marsalis con Frank McComb, Take Six e Sing a Song degli Earth, Wind and Fire, Michelle con Dreadlock, Erika Badu e D'Angelo con il suo primo grande successo Brown Sugar, che naturalmente vorrei dedicare alla nostra Silvia Barba, anche perché oggi è costipata e quindi non è nel nostro studio, ci starà sicuramente ascoltando. D'Angelo è tutto tuo, Silvia, te lo dedichiamo con tutto il cuore. Sono passati 22 anni Da Brown Sugar, se non sbaglio, quindi ormai è veramente tanto tempo. E in 22 anni di carriera discografica il signor D'Angelo ha realizzato soltanto 4 album ufficiali, 3 in studio e 1 live al Ronnie Scott di Londra. Poi sono usciti vari bootleg e compilation e alcune collaborazioni, non tantissime per D'Angelo. Beh, però preferisco pochi ma buoni di questa qualità piuttosto che fare 20 dischi di cui solo 3 sono belli. Fiorenza, facendo il tuo lavoro, Fiorenza Gherardi dei Candei, ufficio stampa, è nostra ospite oggi al Soundcheck di Radio 24, ti sarà capitato di conoscere tanti artisti, ce ne sono alcuni che sono disponibili, altri un po' più complicati da trattare, intrattenere, da portare in giro. Fra gli artisti internazionali, con chi hai instaurato un buon rapporto e con chi hai avuto qualche difficoltà? Sono fortunata, credo, ho instaurato sempre ottimi rapporti. Con tutti? Sì. Perché secondo te tromba? Beh, è facile con una ragazza così, voglio dire, è difficile andargli contro. Hai ragione, 1,80 m di ufficio stampa, no? Vestita bene, poi anche con questo nome, già quando si presenta, no? Chi è il tuo ufficio stampa? Fiorenza Gherardi dei Candei, no? E si levano subito il cappello. Perché si levano il cappello? Tromba, diciamolo. Beh, perché è nobile, quindi. È nobile. Inchino. Che sei, una contessina, no? Sono una contessina. Sei una contessina. E questa cosa ti mette in imbarazzo o no? Non esce mai l'argomento. Non esce mai. Io però, vedi, l'ho fatto uscire. Ho sbagliato? No. No, perché sei orgogliosa, no? No, non sono orgogliosa, me ne dimentico. Quando c'è l'argomento mi fa ridere, è simpatico. È vero, è simpatico. Mi ricordi una cosa? Sulla coroncina, quante palle ci sono? Mi sembra 4-5 di averne. Hai capito, tromba? Tu quante ne hai? Nessuna. Nessuna, neanche quelle che dovresti avere per omologazione proprio genetica. Neanche quelle ha. Va bene, da D'Angelo con Brown Sugar. Adesso siamo pronti quasi per fare una pausa perché vogliamo essere puntualissimi con l'informazione di Radio 24, fondamentale per noi, ma andiamo a presentare un'altra artista incredibile. Intanto, Fiorenza, qua tocca mettere su un grande festival di contemporary R&B, no? E dobbiamo sempre vederli questi artisti infilati in festival jazz, ma non c'è mai una cosa dedicata, a parte il festival che si fa a Locorotondo, che si sta un po' specializzando. Sì, pare, cioè la credenza popolare è che non ci sia un pubblico mercato per l'R&B in Italia, invece io sto vedendo che sta crescendo tantissimo. No, sta crescendo tantissimo, ma poi intanto bisogna promuoverli, no? Partiamo sempre dalla comunicazione. Se si fa una buona comunicazione cresce anche il pubblico. Se in radio e in televisione suoniamo sempre le stesse cose, sto sbagliando, Fiorenza? Assolutamente sì. Assolutamente sì, no. Assolutamente sì, bisogna farlo e sarebbe molto divertente farlo. Ecco, allora sono contento e spero finalmente di vedere dal vivo Jill Scott, questa donna che diventa ogni anno più rigogliosa. Più imponente. Imponente. Mamma mia, Jill Scott, un colosso di soul music, una voce potentissima, si fece conoscere con questo suo successo, It's Love. Jill Scott al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Airplay fortissimo quello di questa sera qui al Soundcheck di Radio 24, con il quale vogliamo ricordare i masterpiece, gli standards del contemporary R&B e gli artisti che hanno aperto una strada, un nuovo sentiero e che quindi stanno stimolando la creatività recente dei nuovi protagonisti della black music contemporanea. Ancora non abbiamo ascoltato i The Roots, però da quello che vedo ci saranno. Arrivano, ma figa, non potevano mancare. Anzi, devo dire una cosa, che ho avuto un po' di difficoltà a fare la selezione, perché li ho messi tutti insieme, erano venuti fuori 20-30 artisti eccezionali. Perché sono tanti. E poi sono andato all'osso, ho scelto quelli che, ecco, ho detto, voglio parlare di me. Quali sono gli artisti che mi sono piaciuti di più negli ultimi 20 anni, 30 anni? E quindi la selezione, quindi fatto una classifica. Ho fatto una classifica personale e oggi la scopriremo. Bene, Fiorenza Gherardi De Candè, sempre nostra ospite, ti vedo quasi affascinata da questa puntata, dal suono, ma anche dal fatto di essere forse per la prima volta protagonista in radio. Di solito porti i tuoi artisti, gli artisti con i quali lavori. Lo ripeto, Fiorenza è un ufficio stampa, quindi il suo lavoro è quello di descrivere l'arte e il talento di un artista per preparare la pubblicazione di un album o l'inizio di una tournée o di un concerto importante, e comunicare il tutto quindi alle testate giornalistiche, alle radio e via dicendo. Un lavoro interessante, io lo trovo molto affascinante. Lo è, sì, moltissimo, stimolante, e stimola tantissimo anche il carattere e la personalità. Ecco, naturalmente non basta avere una grande agenda, perché si dice che un buon ufficio stampa ha una grande agenda, tanti contatti, sa fare le pubbliche relazioni, però credo che oggi si debba anche inventare, creare qualcosa di nuovo per la comunicazione, visto che c'è il digitale, c'è internet e la tecnologia ci aiuta. Assolutamente, difatti credo sia una professione che è cambiata molto negli ultimi anni. Io in particolare ho sfruttato sia la curiosità per quanto riguarda ovviamente internet, il mondo dei social. Tra l'altro anni fa mi sono laureata proprio con una tesi su MySpace, allora c'era MySpace, però applicato a un nuovo marketing per la musica classica, perché all'inizio volevo fare ufficio stampa nell'ambito sinfonico. E poi piano piano, insomma, invece mi sono felicemente spostata al jazz. Quindi internet, ma anche tutto ciò che è visuale. Mi sono appassionata di fotografia, di video, e questo l'ho applicato tantissimo al mio lavoro. Poi ormai è appannaggio anche degli artisti stessi, cioè Instagram, Facebook stesso è organizzatissimo per la condivisione di foto, dirette video e via sì, dicendo. Sì, ma funziona per gli artisti Facebook? Perché io ho notato che se posto un concerto importante, adesso per esempio farò il concerto all'Auditorium Parco della Musica ad aprile, e se metto la locandina di quel concerto ho alcuni mi piace, qualche condivisione, ma se invece posto la mia fotografia sporco di sugo dopo una mangiata di paccheri alla Sorrentina, e lì faccio il botto. Come mai? Assolutamente sì, perché ovviamente si va a incidere un po' su quella che è la curiosità, la voglia di conoscerti proprio nel tuo privato, e questo mi ha colpito anche in MySpace, dove per esempio avevo nella tesi avevo intervistato dei direttori d'orchestra che poi pubblicavano foto di loro in canottiera, in moto, alla cena con gli amici a casa mentre tagliavano un direttore d'orchestra in canottiera. Assolutamente. E qui saltano tutti gli schemi, allora vuol dire che io posso fare di più. Tromba, prepariamo i perizoma. Assolutamente. La prossima locandina per l'Auditorium Parco della Musica sarà tromba in perizoma. No, io non suono. Oramai ho poco da mostrare tromba. Invece tu, che sei giovane, forse hai molti peli, però. Sì. Quello non è bello. Quelli funzionano, Fiorenza, nella comunicazione? Ci può essere un'unica imbarazzo, devo dire, in imbarazzo. Non so se ti sei imbarazzata perché sei contessina o proprio perché l'argomento è squallido, sì. Andiamo avanti, passiamo a qualcosa di più serio. Passiamo a Mary J. Blige. Tromba, raccontami qualcosa di bello di Mary J. Blige. Non ce la faccio. Perché? Sto ancora ridendo. No, Mary J. Blige ultimamente si è spostata a Londra. Questa è la cosa più interessante, che si è stancata un po' dell'America e quindi si è spostata nel Regno Unito, dove c'è un movimento. Però lì ha anticipato, perché noto che adesso molti artisti si vogliono spostare in Europa per motivi che ben possiamo comprendere, no? Sì, soprattutto perché comunque a Londra c'è un movimento che riguarda l'R&B che è molto sviluppato. Ci sono delle nuove leve che stanno sperimentando delle cose molto interessanti. E quando sei a Londra, la prima radio che ti viene proposta da un ufficio stampa accreditato è quella di Giles Peterson. Giles Peterson. Bene, Mary J. Blige con About You. Questo è un successo del 2004. Quanto mi piace questo brano. Soundcheck, il suono della musica. E anche questo è un artista che ho molto amato e che continuo a seguire. Talk to Her, un successo di India Arie qui al Soundcheck di Radio 24. Anche lei è una protagonista degli ultimi 20 anni della black music, con il suo sound così raffinato, acustico, minimal, soprattutto per questa produzione. Ultimamente India Arie ha fatto anche una bellissima apparizione al Berklee College of Music a Boston. Lo so perché mio nipote Arnaldo, in arte Ainè, sta frequentando il corso in questo momento e si è ritrovato a una masterclass di India Arie e mi ha detto che è stata una cosa molto emozionante perché ha cantato con tutti i ragazzi e ha raccontato delle cose importanti. Beh, infatti la cosa bella dell'America è questa, che a un certo punto compare mentre sei lì a studiare, che ne so, Esperanza Spalding, pure lei lavora, collabora con la Berklee ad esempio, quindi da un momento all'altro può succedere di tutto. Assolutamente sì, e beh, insomma, stiamo parlando anche di una delle scuole più importanti per la formazione di musicisti dell'ultima generazione, ma l'ultima generazione ormai da 40 anni, credo, forse più, no? Sì, anche una delle più care del mondo. È la più cara, e infatti non credo che mio nipote riuscirà a sopravvivere a lungo, perché chi glieli manda i soldi? Beh, o prende una borsa di studio. Ma infatti ci è andato perché ha preso una borsa di studio alla Berklee, ai corsi della Berklee lì a Perugia. Comunque, se ci stai ascoltando, Arnaldo, in bocca al lupo, vai alla grande e divertiti. E ci sono molti italiani che stanno studiando lì, ma anche molti giovani artisti che si stanno facendo le ossa all'estero, perché quello è un po' l'obiettivo di tutti. È vero, Fiorenza, che sta succedendo nel nostro paese? Tu lavori tanto perché ci sono tante nuove leve che hanno bisogno di essere sostenute nel loro lavoro, promosse, però poi il desiderio è sempre, per tutti, è sempre quello un po' di evadere, di lasciare il nostro paese e di fare esperienza fuori. Perché sta succedendo questo? Sta succedendo questo, immagino, anzitutto per un discorso di opportunità che comunque qui in Italia sono limitate, lo dicevamo all'inizio, comunque, no? Il jazz a livello mediatico, ma anche a livello organizzativo, comunque è un pochino penalizzato anche abbastanza ingiustamente. Però estenderei l'argomento, cioè non è soltanto per il jazz, anche per chi vuole fare pop music o i songwriter, i cantautori. Se non vai a X Factor, come si fa? Ma dipende... Se non appartiene a una multinazionale, come si fa? Ci sono tanti indipendenti. E qua dovevi dire, c'è bisogno di un buon ufficio stampa. No, va bene, ci sono tanti indipendenti. Sì, ci sono tanti indipendenti e quando la musica è bella il pubblico se ne accorge. Ecco, quindi la prima cosa è fare buona musica. Non è che vi mettete lì sulla chitarra, fate due accordi, scrivete due parole e sono diventato un songwriter. Tromba, qual è il segreto? Beh, bisogna lavorare tantissimo. Innanzitutto devi essere bravo, quello è il punto di partenza. Se non fai della buona musica, se non hai studiato, se non sei preparato, non vai da nessuna parte. Anche perché te devi essere sincera quando comunichi il talento di un artista. Assolutamente. Per questo dicevo, mi piace innanzitutto conoscerlo, capire cosa c'è dietro questa richiesta. Ti è mai capitato di rifiutare un lavoro perché per motivi proprio di incompatibilità artistica? Sì, mi è capitato. Ah, meno male, viva la faccia, uno lo può dire. Allora, da India Arie direi di passare ai protagonisti della black music contemporanea, ma ormai da 20 anni fanno musica, una band sta insieme, non stanno insieme da tanti anni come i Pooh, per esempio, però, no. Però quando suonano si sente che è una band compatta, un sound efficace, e infatti oggi sono anche famosi perché sono diventati la band di servizio del programma televisivo più importante e più seguito, che è il nostro programma preferito in televisione, che è il Tonight Show di Jimmy Fallon. Sì, in The Roots in questo caso c'è, cioè, soprattutto Questlove. Fanno scuola per l'intelligenza che hanno avuto nel corso degli anni, cioè sono ovunque. Questlove è veramente dappertutto, tutti i migliori album di R&B, c'è comunque il suo zampino, c'è, esatto. Ha creato tutto un network con OK Player, che appunto è un sito di promozione sia per quanto riguarda l'hip hop sia per quanto riguarda il jazz, quindi è veramente un maestro. Sì, hanno un suono unico, efficace, e naturalmente il suono dei Roots poi è stato recuperato da alcuni fra i migliori musicisti e i migliori artisti di oggi, ma questi sono loro, gli originali, The Roots con Tip the Scale. Can you hear me? Wow, me. Sì. Soundcheck, il suono della musica. Ed eccolo qui un altro fra i grandi protagonisti della black music di oggi. Anche lui è un musicista completo, preparato, ha studiato musica classica, viene dal jazz, ma poi a un certo punto l'illuminazione con due album importantissimi per lui e per la black music di oggi, ovvero con gli Experiment ha realizzato Black Radio 1 and 2 e lui è Robert Glasper qui con Lala Hathaway, che recuperano un successo di Sade intitolato Cherish the Day, e mi fa impazzire il solo armonizzato, no? con un effetto di Casey Benjamin, è bellissimo il solo di contralto. Sì, loro tra l'altro, cioè, sono un punto di riferimento anche in Italia, cioè io non ho visto un loro concerto dove non fosse strapieno, quindi il fatto di cui parlavamo prima, che appunto non esiste un audience in Italia dedicata all'R&B, è secondo me assolutamente falso. Forse l'unico ostacolo per chi organizza i concerti potrebbe essere l'ingaggio, perché magari ad esempio, non so, Lala Hathaway ovviamente c'ha un budget molto alto che in Italia magari non viene ripagato dal sbigliettamento. Questo potrebbe essere un'idea, però Robert Glasper, che ad esempio ha un budget un po' più basso rispetto alla Hathaway, comunque riempie completamente i posti dove va a suonare. Sì, questa è una cosa che mi ha detto proprio Robert Glasper: il segreto di tanti concerti è proprio il fatto di aver individuato un budget, un prezzo molto interessante, competitivo, e soprattutto di andare ancora in giro dopo il successo che ha ottenuto come un quartetto, un quintetto di jazz tradizionale, cioè si mettono in aereo, vanno, non si portano gli strumenti, il batterista si porta i piatti e le bacchette, gli strumenti sul posto, c'è una richiesta tecnica minimal. Una volta richiedeva il piano acustico, poi ha capito che andando in giro il piano acustico, il piano a coda poteva dare tanti problemi, il pianoforte non era buono, non era ben accordato, la meccanica non riusciva a soddisfare le esigenze di Robert Glasper. Alla fine fa proprio una richiesta di tastiere di ottima qualità, ma insomma, con poco si può organizzare il concerto di Robert Glasper, e quello che poi combinano sul palco questi musicisti è spettacolare. Io mi diverto sempre. Allora, Fiorenza, per concludere, come si scrive un bel comunicato stampa? Dovendo presentare l'arte e il talento di Francesco Tromba, nuovo cantautore della scena italiana, che ti piacerebbe essere in questo momento? Un artista hip hop, rap o cantautore? R&B, R&B. Ma non è neanche l'aspetto. No, l'ufficio stampa ti consiglierebbe subito di cambiare look. Sì, oppure magari, visto l'aspetto, potrei essere un indie. Un cantautore indie. Un indie. Allora, come si scrive un comunicato stampa efficace? Allora, sicuramente, come dicevo, si studia moltissimo l'artista. A volte è importante sapere il vissuto, le origini musicali, il percorso che è stato fatto, anche la gestazione del disco, perché dietro a tutti questi aneddoti ci sono poi le informazioni, si possono nascondere a volte delle informazioni invece interessanti, che diventano fondamentali magari anche nel titolo stesso del comunicato stampa, perché il compito di un comunicato è anche quello di attirare l'attenzione del giornalista e del pubblico che lo legge. Hai detto una cosa giusta: attirare l'attenzione e non annoiare. Assolutamente. Ecco, perché ogni tanto a me arrivano dei comunicati che sono dei tomi impressionanti, 10 pagine, la storia di un artista giovane di 10 pagine non si può leggere. No, cioè, non hai proprio il tempo, non hai la voglia, anche perché la prima cosa è ascoltare la musica. Se la musica mi piace, poi voglio approfondire la conoscenza, anche perché poi magari ne devo parlare in radio o agli amici, perché quella poi è la cosa che funziona di più. Il network di strada e la comunicazione fra i musicisti, quella è la cosa che fa crescere la fama di un artista alle prime armi, giusto? Assolutamente, infatti quello è l'aspetto più tecnico del mio lavoro, cioè di conoscere le tecniche di comunicazione con le quali confezionare le parole. Ecco, ormai non ha più bisogno di, credo, uffici stampa accreditati, avrà il suo management, il suo ufficio stampa personale, un artista come Kendrick Lamar. Ormai fa pure pubblicità per grandi multinazionali, quindi sicuramente non ha bisogno di grandi promoter. Dimmi una cosa, Tromba, Kendrick Lamar può essere considerato il rapper rappresentante di questo momento storico? Assolutamente sì. Soundcheck. il suono della musica. Non è molto conosciuta da noi Algebra Blessed, però coinvolta ormai da Esperanza Spalding nei suoi progetti da un po' di tempo si sta facendo notare anche lei. Black Gold, il titolo di questo brano di Esperanza Spalding, anche lei la annoveriamo oggi fra, come dire, i campioni della black music contemporanea. Sì, lei è anche facilitata molto dal suo aspetto fisico, quindi essendo una gran bella ragazza è ancora più facile che venga fuori. Ecco, facilitata dal suo aspetto fisico anche Fiorenza Gherardi De Candei come ufficio stampa accreditato, ma facilitata anche dalla tua competenza e dalla tua passione nei confronti della musica. Fiorenza, io ti ringrazio tantissimo per la partecipazione, per averci illustrato gli aspetti fondamentali del tuo lavoro, e adesso a questo punto possiamo anche raccontare che stiamo collaborando, perché fra un po' parte la mia tournée e quindi finalmente possiamo collaborare. Assolutamente sì, e ci voleva. La cosa mi mette anche un po' in imbarazzo, perché noi ci conosciamo da tempo, siamo comunque amici, e adesso hai dovuto studiare tutte le mie avventure artistiche e non, familiari, e sai praticamente quasi tutto di me. Devo correggere quel quasi adesso, quello sarà il compito, quello di eliminarlo. Di eliminarlo. Bene, allora una cosa che invece possiamo fare, e farei volentieri, è quella di annunciare le date di questo tour che sta per partire. Ormai ci vuole ancora un po' di tempo, ma io mi sto preparando psicologicamente, faccio sempre più fatica col passare del tempo, ma sono quasi pronto. Intanto annuncio che Joanna Teeters, voce di Mad Satta, sarà con noi, anche perché ha partecipato al progetto Fun Slow Ride, che è il progetto che noi porteremo in giro come suono, ma anche per promuovere, e posso usare questo termine, Sounds for Children, che è un bellissimo progetto che stiamo realizzando per UNICEF. Assolutamente sì, e quindi non vedo l'ora di essere presente, perché ci tengo moltissimo, per la prima data, che è quella del 29 marzo a Perugia, e si proseguirà fino all'8 aprile, che il tour si conclude al Blue Note di Milano, ma annunciamo tutte le date, quindi il 30 marzo a Roseto degli Abruzzi, quindi vicino Pescara, il 31 marzo a Cava dei Tirreni, al Moro Jazz Club, a Roseto stiamo a Villa Paris, un concerto che recuperiamo, e poi il 1° di aprile dove mi portate? Sul Gargano a mattinata. A casa, vado a casa, Auditorium Mad Mall a mattinata a Foggia, pensa, non ci sono mai stato. Poi ci stanno 2 giorni di day off, il 5 di aprile eccoci qui, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi. Assolutamente. Poi andiamo a Bologna il 6 aprile, quindi dove? Il giorno dopo, al Bravo Caffè. Bravo Caffè a Bologna, bellissimo club, mi diverto sempre tantissimo lì al Bravo Caffè. E poi c'è il Torrione Jazz Club a Ferrara, finalmente, lo sai che in tanti anni di carriera è la prima volta che sono lì? Club bellissimo, sono contento, bellissimo. Molto molto sì. Contento. Chiudiamo quindi al Blue Note di Milano. Blue Note di Milano, l'8 di aprile. Beh, mi devo preparare psicologicamente, ragazzi. Vabbè, siamo pronti anche per chiudere il nostro soundcheck. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani alle 19.15, sempre qui su Radio 24. Grazie a Francesco Tromba, grazie Fiorenza, ti voglio bene. Grazie, Gigi, anch'io. Adesso continueremo a lavorare e a parlare di attività promozionali. Con chi vi lascio? Beh, vi lascio con il signore fondamentale per la black music, veramente il ponte fra il jazz contemporaneo, il funk, il groove, il rap. E tra l'altro stiamo aspettando il nuovo disco, Francesco, giusto? Sì, dovrebbe uscire a breve. Con collaborazioni importanti. Sì. Però sentite un grande maestro del jazz come Herbie Hancock, che cosa combina quando incontra un disc jockey di fama come Rob Swift. This is Rob Swift, Herbie Hancock.